America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Before we begin with today's announcement, I do have a brief comment to make on the situation regarding FISA. As Attorney General, I am committed to ensuring that this nation protects the civil liberties of every American while also keeping our country safe and secure. Loretta Lynch, segretario della giustizia americano, beh, avrete sentito i mille variazioni diverse, la storia dell'incriminazione della FIFA, l'incriminazione che parte dagli Stati Uniti. Come dire, c'è qualche cosa di paradossale in quello che è successo, perché l'America è il paese dove in teoria si gioca meno calcio rispetto al resto del mondo, però guarda caso è proprio dall'America che è partita questa inchiesta. Loretta Lynch l'aveva seguita quando era procuratore a Brooklyn e quindi è intervenuta direttamente. C'è il Dipartimento per la Giustizia, l'FBI e naturalmente l'IRS, il fisco americano. Tutti e tre hanno partecipato a questa inchiesta. Perché? Perché, come dire, era arrivato il momento di chiarire che la festa è finita, che il modo in cui un'organizzazione internazionale importante come questa è gestita non poteva più andare avanti, perché quel tipo di, come dire, collusione, corruzione che appartiene a certi organi pubblici, per l'America non va, non funziona. E questo secondo me ha due significati importanti come conseguenza di questa azione americana. Il primo è che naturalmente la musica è finita, cioè a questo punto basta, non si ballerà più, non si giocherà più come si giocava prima, speriamo che ci siano funzionari onesti come ce ne sono tanti. Ma è il secondo aspetto che a me interessa di più, e cioè che se l'America si interessa così tanto al calcio, è perché qualche cosa sta cambiando anche in America nei confronti del calcio. Il calcio a questo punto diventa sport primario e dunque, come dire, nel momento in cui l'America giocherà secondo me un ruolo crescente in questo sport, occorreva che ci fosse trasparenza assoluta. With respect to corporate support, I think it's like everything. They've got to believe, companies have to believe in the product. And the transformation of second division under the NASL banner. Ecco, fra i tanti incriminati internazionali ce ne sono anche alcuni americani. Uno di questi è Aaron Davidson, che avete sentito, che è un marketing executive di una società che fa prodotti sportivi, ma che è anche presidente del consiglio governatore della North American Soccer League. La North American Soccer League è l'equivalente della nostra Serie B, mentre invece la Major League Soccer è l'equivalente della nostra Serie A. Ecco, anche lui è stato fra gli arrestati in questo scandalo partito, esploso dopo questa inchiesta dell'FBI. Però arriviamo al punto, qui si vuole ripulire il calcio, non si scherza più. La Major League Soccer americana è in netta crescita, è cambiato qualcosa nell'ultimo anno, negli ultimi due anni. Questa lega è stata fondata nel 1993, quindi in tempi molto molto recenti, dopodiché insomma, come dire, è rimasta un po' in secondo piano per qualche tempo, fino a che dopo i mondiali di calcio, dopo il successo della nazionale femminile americana, dopo il successo anche della squadra nazionale degli Stati Uniti, che comunque è riuscita a passare qualche turno, e soprattutto dopo questo fenomeno sociologico incredibile che ha prodotto le soccer mom, che sono milioni e milioni di madri che portano i propri figli a giocare a calcio e non più a football, perché tutti credono a questo punto che sia molto pericoloso e molto più elegante e molto più tranquillo il calcio. Ecco, qualche cosa è cambiato nella cultura sociologica sportiva americana. Il calcio a questo punto sta per diventare uno degli sport nobili. Quali sono gli altri sport nobili in America? Il baseball, il football che conoscete, il basketball che ha un ruolo straordinario, molto molto importante, e l'hockey su ghiaccio. Sono questi quattro che in qualche modo si sono coalizzati per tenere il calcio fuori, perché il calcio non potrà esplodere a un livello professionale davvero serio fino a quando non diventerà major di fatto, oltre che di nome, dunque sport pesante, con un forte sbocco in televisione e quindi con un giro pubblicitario altrettanto elevato. Ecco l'inno della la Philadelphia Union, la squadra di calcio di Philadelphia, che in questo momento è settima nel campionato americano. Allora, come è strutturato il campionato americano? Oggi ci sono 20 squadre professionistiche, l'obiettivo è di arrivare a 24, ci sono ormai dirette televisive, sta cominciando a crescere davvero il mercato del calcio. La formula com'è? Beh, la formula è divisa in due conference, in due leghe, sottoleghe, la Western Conference e la Eastern Conference, un po' come nel football, in base alla posizione geografica. Lo svolgimento del torneo avviene in due fasi, la prima fase è quella della stagione regolare, in cui ogni squadra disputa 34 partite, 17 in casa, 17 fuori casa. Oggi abbiamo Dallas, che è la prima in classifica della Lega Ovest, con 21 punti, e United di Washington, prima in classifica con 22 punti, della Lega East. Dopodiché i vincitori delle due leghe faranno i playoff, e quindi diventa ovviamente uno scontro finale molto molto interessante. I still like analyzing statistics. I still like trying to find ways to beat the odds. And some of you may have read a book that came out recently about soccer. It had an interesting statistic in it that 1 in 75 corner kicks results in a goal. Ecco, questo che avete sentito è Jay Sugarman, presidente del Philadelphia Union, che dal 2010 partecipa alla Major League Soccer. In questa breve chiacchierata che lui fa, racconta di come fin da ragazzino era appassionato di statistica. Prendeva i giornali sportivi, i magazine sportivi, andava alla fine dove c'erano tutte le statistiche. Ecco, questo è un punto molto importante, perché l'America, secondo me, cambierà anche un po' il calcio con un'analisi statistica di tutte le possibilità di strategia di gioco che in questo momento magari noi non esploriamo, non esaminiamo. E in questo caso particolare Jay Sugarman dice che tutto è possibile per migliorare una performance. Per esempio, dal punto di vista difensivo, dice, su 75 corner soltanto un corner si trasforma in gol. Questa è la statistica. Se poi si decide di non mettere per qualunque ragione nessun difensore sulla linea del gol, diciamo di fianco al portiere, la statistica si abbassa e c'è un gol ogni 60 corner. Ma se a quel punto si mettono due difensori, la percentuale per trasformare un corner in un gol diventa un gol su 105 corner. Ecco, questa è la tecnica che lui sta applicando alla sua squadra, appunto la Philadelphia, che ha vinto 2-0 nell'ultima partita di domenica contro i Red Bull di New York. E devo dire che Jay Sugarman, una lunga chiacchierata che ho fatto con lui, lui è un operatore nel real estate, il suo mestiere è quello di gestire dei fondi immobiliari, ha fatto una fortuna straordinaria, è stato davvero molto molto bravo, poi ha investito in questa squadra di calcio, e con lui è molto ottimista, dice che da qui a 5 anni il calcio americano diventerà lo sport numero uno in questo paese. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di calcio, dunque la canzone dei mondiali 94 in America, Glory Land. And a dream was born in you. You hope and pray that come the day you'll see that dream come true. With every passing moment you begin to understand that you're bound for glory land. The hunger in your heart, and with fire in your soul, with passion rising high, you know that you can reach your goal. Reach your goal. Believe in what you do, and you the strength to see it through. See it on the road to glory land. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.